Domenica prossima, 19 marzo alle 18 a San Giorgio di Piano, all'interno del Festival della Divulgazione, ci sarà una conferenza intitolata Insetti come cibo del futuro. A parlarcene sarà l'entomologa dell'Università di Modena e Reggio Emilia, la professoressa Lara Maestrello, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno. Quello degli insetti come cibo del futuro è un tema che sta facendo breccia un po' anche nell'opinione pubblica italiana, in particolare con la farina di grillo. Insomma, è un tema che non è più, come dire, futuribile, ma è presente. Sì, certo. Beh, diciamo così che adesso tanti si scandalizzano, iniziano a pensare che ci siano, che so, dei complotti da parte di multinazionali, piuttosto che questa Unione Europea che ci vuole costringere a mangiare gli insetti. È tutto montato, più o meno ad arte. Semplicemente sono uscite lo scorso gennaio due approvazioni nuove e si aggiungono ad altre quattro che erano già state emesse prima, dal 2018 in totale ne sono uscite 6 di approvazioni per il consumo di specifici prodotti a base di insetti. Questo è quello che è saltato fuori. Poi da di lì è stato reclamato molto. Allora, sostanzialmente cosa è successo? Che da quando era cambiata la normativa nel 2018 ed è la cosiddetta normativa sul novel food, che considera tutti quei cibi nuovi, cioè che non sono, diciamo così, consuetudinariamente considerati cibo da parte appunto nostra in generale, nostra europea, tutti questi cibi sono stati regolamentati da questa direttiva che appunto uscì nell'inizio del gennaio del 2018, e tra questi ci sono anche questi novel food, ci sono anche gli insetti, ci sono anche le alghe, ci sono anche altri prodotti che più o meno stiamo iniziando a vedere anche sulle nostre tavole. Bene, perché gli insetti? Perché diciamo che tradizionalmente si pensa che in Europa non siano mai stati mangiati, in realtà non è affatto così, perché comunque ci sono diversi casi anche in Italia di tradizioni culinarie anche proprio tipiche in cui alcuni insetti vengono mangiati storicamente. Uno di questi, forse i sardi all'ascolto lo conoscono molto bene, è il casumarzu, e non è altro che un formaggio che pare essere delizioso dovuto alla, diciamo così, alla trasformazione operata dalle larve di una mosca che si chiama Pyophila causei, è la mosca del formaggio, e sostanzialmente non è altro che un pecorino che viene, a cui viene tagliata la crosta in modo tale che possa essere colonizzato dalle, cioè ci sono queste le femmine che arrivano, depongono le uova, le larve che escono fuori iniziano a mangiare il formaggio, ma così facendo praticamente lo riducono ad una cremina. Le larve crescono e nel frattempo questo formaggio che prima era duro diventa una cremina che pare abbia degli aromi eccellenti, e quindi diciamo così che i sardi di solito mangiano il formaggio assieme alle larve, anche proprio vive. Poi i più schifiltosi, diciamo così, si mangiano il formaggio ed evitano le larve, e così, quindi in realtà è questa cosa che nella tradizione sarda, in realtà cose simili c'erano anche in altre regioni italiane, Furmai Nisa, Piacenza, la Robiola Cuibeg, insomma ce ne sono stati altri di cose del genere, e anche in altri paesi europei ad esempio si mangiano dei formaggi che sono il frutto dell'operato, diciamo così, di alcuni acari, come il Milbenkäse in Germania, piuttosto che il mimoletto in Francia. Quindi in realtà questa cosa della novità di insetti nella nostra alimentazione non è del tutto nuova. Detto questo, però, quello di cui si parla adesso sono queste approvazioni effettuate a livello di Unione Europea di alcuni prodotti a base di insetti. Ora, ce ne sono 6, 2 riguardano la larva della farina, il tenebrio molitor, 2 riguardano grilli, la Cheta domesticus, e 1 riguarda la locusta migratoria. Quindi questi cosa vuol dire? Che sono stati approvati degli specifici prodotti a base di insetti, di solito sono farine che dentro appunto contengono questi insetti, e che il fatto che siano stati approvati cosa vuole dire? Vuole dire che tutto è passato in primis all'EFSA. L'EFSA, dopo aver esaminato un corposissimo faldone con tutta una serie di analisi eccetera eccetera che riguardano vari aspetti proprio della sicurezza, anche assenza di contaminanti, assenza di sostanze tossiche eccetera, alla serie di questo lungo processo, alla fine di questo processo l'Unione Europea ha deciso, in cui l'EFSA ha dato il suo ok, ha approvato appunto questi prodotti nuovi a base di insetti per il consumo alimentare umano, così come ha approvato prodotti a base di alghe o prodotti a base di altre cose che non erano tradizionalmente specialmente nella, appunto, nelle nostre tavole. Quindi questo semplicemente l'Unione Europea si limita a dire: guardate che se trovate in commercio prodotti di questa ditta che ha fatto la richiesta per avere appunto questa autorizzazione, guardate che sono sostanzialmente cibi sicuri dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista anche proprio dell'assenza di contaminanti. Lei ci ha spiegato sostanzialmente che noi mangiavamo insetti anche senza saperlo, o comunque senza ricordarcene. Un'altra cosa ancora che no, mi dice. No, chi non ha mangiato le farfalline nella farina, per dire. Bravo, esatto. Infatti, perché poi io ho parlato di queste cose dove gli insetti si vedono, ma attenzione, guardate che la stima, quando è una domanda che faccio sempre anche ai miei studenti, faccio quando mi guardano schifati, no? L'idea di mangiare insetti, quando mai? Però quando io chiedo quanti insetti pensate di mangiare ogni anno, e tutti mi dicono: no, niente, zero. E faccio: non è vero, perché la stima parla di mezzo chilo a un chilo all'anno, cioè tutti quanti mangiamo inconsapevolmente, perché ci sono i residui delle bestioline che vivono nelle derrate alimentari e che quando si fanno le farine, voi non crediate, ma ci rimangono dentro. Quindi in realtà almeno quel chiletto, mezzo chiletto all'anno ce lo mangiamo tutti di insetti senza saperlo, eh? Quindi e non è mai morto nessuno, perché è dentro al bignè che ti mangi o dentro la pasta che ti mangi a mezzogiorno. Quindi già questa è una cosa che la gente deve sapere. Possiamo dire che quelle attuali sono resistenze culturali. Bravissimo. E soprattutto quello che ci tengo a dire: non è che nessuno obblighi nessuno a mangiare gli insetti, attenzione. Queste normative a livello europeo che sono state recepite anche in Italia semplicemente ti dicono: guarda che adesso sul mercato europeo ci sono anche questi prodotti a base di insetti e se vuoi te li puoi mangiare, sono sicuri, ma nessuno ci obbliga a, chiaramente, no? Per cui sì, questa è la cosa importante. In attesa di ascoltarla al Festival della Divulgazione, le faccio un'ultima domanda che riguarda invece, come dire, un tema più generale su quello, se diciamo che è quello dell'approvvigionamento di cibo nel futuro. Spesso sì. si citano gli insetti come uno strumento per sopperire a carenze anche alimentari di altro tipo. È questo lo scenario? Sì, assolutamente. Le stime della FAO parlano di un incremento dal 50 al 70% del consumo nella carne nei prossimi 50 anni e questo è del tutto insostenibile, perché la popolazione cresce, siamo già 8 miliardi e siamo destinati a aumentare ancora di più, mancano le proteine e d'altra parte c'è un incremento nella voglia di mangiare le proteine animali e il problema è che non sappiamo assolutamente più dove metterli questi animali, perché anche in termini proprio di consumo di suolo, allevare bovini piuttosto che maiali eccetera, il consumo di suolo è enorme. Quindi il problema è che da un lato abbiamo bisogno comunque, una popolazione che cresce ha bisogno di proteine, ha bisogno di grassi, ha bisogno di nutrienti, il problema è che come noi adesso stiamo allevando i nostri animali, i vertebrati, chiamiamoli così, non è per nulla sostenibile, sia in termini di consumo di suolo, in termini anche di necessità idriche, in termini di anche consumi energetici, in termini poi di produzione di gas climalteranti, perché poi c'è poco da fare. Sono state fatte delle statistiche, adesso qui è bello quando io farò vedere, diciamo così, anche proprio visivamente, sono stati fatti proprio dei calcoli che alla fine invece, se al posto di, diciamo così, l'allevamento degli insetti rispetto ai vertebrati, è estremamente più sostenibile e più conveniente, nel senso appunto che intanto per un motivo proprio fisiologico, la cosiddetta efficienza di conversione, cosa vuol dire? È quanto io do da mangiare all'animale e quanto ne ricavo poi in termini di qualcosa che io posso a mia volta consumare. I vertebrati, col fatto che sono animali a sangue caldo come noi, consumano buona parte di quello che mangiano per mantenersi caldi, siamo animali a sangue caldo e quindi va a finire lì. Gli insetti sono animali a sangue freddo e quindi non hanno bisogno di sprecare appunto energia, calorie eccetera, per mantenersi caldi, perché loro sono a sangue freddo e quindi l'efficienza di conversione degli insetti è estremamente più efficace rispetto a tutti quanti i vertebrati. In più c'è un'altra cosa, è che nell'insetto si mangia circa l'80% di quello, appunto la percentuale di bile è circa l'80%, mentre nei vertebrati è comunque inferiore al 60%, 50 nei maiali e nei polli e il 40 nei bovini. E uno dice: sì, vabbè, ma tanto poi dalle vacche, dai maiali ci ricavo anche la pelle e altre cose. Sì, però noi stiamo parlando di valore aggiunto che ha il cibo, quindi nell'insetto lo mangi quasi tutto, scarti poco, e invece quando allevi dei vertebrati tanta parte appunto deve essere scartata necessariamente, poi lo usi per fare altro, ma il valore non è quello del nutriente, il valore in quel caso lì lo usi per fare appunto fibre, cuoio eccetera eccetera. E in termini ovviamente di consumo di suolo, il consumo di suolo degli insetti, che sono molto piccoli, quando vengono allevati li si allevano in dei vassoi che gli puoi mettere tipo condominio, è innumerevoli volte inferiore. Adesso appunto rende bene quando uno fa vedere le immagini, allora se ne rende proprio conto anche visivamente. Quindi la sostenibilità dell'allevamento degli insetti è enorme rispetto invece a continuare a allevare i vertebrati. E quindi, visto anche che dal punto di vista nutrizionale è stato dimostrato che comunque hanno tutte le caratteristiche nutritive che ci servono, amminoacidi, quelli appunto che ci servono, i grassi, tra l'altro una percentuale di grassi tra virgolette buoni superiore rispetto a tante carni che si mangiano, devo concludere anche con una cosa, perché tanti puntano su quello, sì, ma c'è scritto anche in queste leggi appunto che fanno, possono fare dei danni alla salute. Allora, l'unico danno alla salute che possono fare gli insetti è esclusivamente per le persone che sono allergiche ai crostacei. Le persone allergiche ai crostacei hanno ipersensibilità verso alcune proteine specifiche, che sono la tropomiosina e l'arginina chinasi, faccio anche proprio i nomi, e chi è allergico ai crostacei è allergico a queste sostanze, visto che i crostacei e gli insetti appartengono allo stesso grande gruppo di animali che si chiamano gli artropodi, è chiaro che chi è allergico ai crostacei non deve mangiare insetti, perché quelle stesse proteine le ritrova anche negli insetti. Quindi l'attenzione è per chi ha questa allergia manifesta, e c'è anche una possibilità che anche chi ha un'allergia agli acari della polvere, visto che pure quelli sono sempre artropodi, possa manifestare problemi di allergia anche nei confronti appunto di prodotti a base di insetti. Ma detto questo, insomma, non ci sono pericoli di sorta per la salute umana, anzi. Beh, insomma, ci ha già dato uno spaccato di quella che sarà l'interessantissima conferenza di, ricordo l'appuntamento, domenica 19 marzo alle 18 nella sala consigliare di San Giorgio di Piano all'interno del Festival della Divulgazione. Grazie mille, professoressa. Grazie.